devi guardare la mail mentre stai seduto sul cesso. Devi trovare l'hashtag più trendy. Devi seguire i tuoi amici. Ma che sei una guardia? Devi farti i cazzi di tutti. Devi trovare il tasto canc. La tua vita deve essere scandita dal cinguettio della tua suoneria. Devi installare programmi a caso. Devi inserire le genti nelle cerchie. Devi twittare ogni due minuti. Ti devi piacere. Ti deve piacere. Devi aggiornare il tuo profilo su Facebook. Devi avere Stephen Hawking su Ruzle. Devi fare finta di avere una Lomo. Devi essere sempre connesso. Ti devi loggare. Devi farti un MacBook. Ti devi aggiornare. Ci devi dare la tua posizione. Ti devi pacciare. Devi installare l'app. Devi farti uno smartphone. Devi condividere tutto. Dammi il tuo numero di cellulare. Devi cambiare il mood. Devi taggare tutto. Tutto. No, no, no, no, no, no, no, no. Il vero sballo è dire no. Balcan. E eccomi, eccomi, eccomi. Scusate il ritardo, vedo che mi stavate aspettando, vi ringrazio di questo. Se invece vi siete connessi così per caso e mi avete beccato, ebbene, io sono il buon Tuco, buon pomeriggio a tutti. Questo è l'Urlo dei Balcani, il programma di Radio Wombat che parla dei nostri vicini. I nostri vicini Balcani, un Balcani diciamo allargati, arriviamo fino anche all'Ucraina e in giù a sud, insomma è tutta una visione di queste terre di mezzo che spesso insomma vengono lasciate nell'oblio, e invece noi diamo voce, anzi urlo, a questi paesi. E infatti oggi parliamo di svariate cose, ahimè riparliamo nuovamente sia di Romania che di Serbia come la volta scorsa. Lo so, perdonatemi, ho in serbo altri argomenti, appunto sicuramente fra due giovedì parleremo, come vi ho annunciato nella puntata scorsa, di un'analisi delle elezioni in Ucraina e insomma di questo comico che sta vincendo in questo ballottaggio, e insomma eravamo rimasti un po' perplessi, quindi approfondiremo, ma non è oggi quel giorno. Parliamo appunto parliamo appunto di Romania, di Serbia, in due contesti diversi. Per quanto riguarda la Serbia, si parla dell'omicidio del giornalista ed editore Slavko Kuruvja, mentre per quanto riguarda Romania, di tutti quei processi che si stanno, insomma, si sono svolti da poco, per quanto riguarda il colpo di Stato del 1989 che contro il dittatore comunista Nicolò Shevchenko, come si pronuncia, e di cui avevo già parlato. Infatti, se qualcuno ha visto il post appena uscito su Facebook, parleremo anche di un curioso spostamento di chiesa proprio durante il regime di Shevchenko, sempre lì, sempre in Romania, di cui parlai già ai tempi in una puntata di Fuoco alle Polveri, quando ancora l'Urlo dei Balcani era solo e soltanto una piccola rubrichetta in quel gran calderone che invece è Fuoco alle Polveri, cioè tutti i lunedì ora dalle 18, dalle 18 alle 19, no, sì, alle 19.30, quindi tutti i lunedì, ricordatevelo, in diretta, se non ci sono tutte le varie repliche. Ebbene, parlai appunto di questa storia, però sono andato a ricercarla, ci ho detto, vabbè, faccio solo parlando di Romania, parlando di Shevchenko, rimandiamo, diciamo, andate a vedervi la puntata di Fuoco. Oh, non l'ho trovata, ragazzi, non l'ho trovata, e quindi ho detto, vabbè, riparliamone. Perché è una storia divertente. Parliamo di novità nei Balcani in generale per quanto riguarda il roaming, una novità che è così giusto raccontare. Un piccolo reportage, no, nemmeno. Sì, un reportage fotografico della Newest Photo Prize, che è un concorso, e vabbè, così un accenno. Ho trovato delle immagini veramente belle, anche buffe. Accenniamo di una bella. Un bel progetto che aiuta le donne a lavorare, a trovare lavoro nelle campagne albanesi, e facciamo un piccolo incipit, un inizio di analisi dei bombardamenti che ci furono da parte della NATO nei Balcani. E appunto faremo un inizio di analisi, mi piacerebbe poi approfondire ulteriormente, ripercorrere anche un po' tutta la storia e quanto l'Europa, appunto, in particolar modo l'Italia, con che partecipò ai comandamenti dando, se non sbaglio, anche le basi, visto che sono quelle più vicine. E quindi piacerebbe approfondire soprattutto il ruolo dell'Europa. Vedremo cosa riuscirò a fare. Intanto io spero che mi stiate ascoltando da un prato, perché la giornata è stata bellissima. Ora tira un po' di vento, però è bellissima. Quindi spero che mi stiate ascoltando lì. Se siete al chiuso, spero che siate costretti dal lavoro, da non so, qualsiasi cosa che vi costringe a stare chiusi, come me. D'altronde io parlo bene, razzo male, perché parlo dalla tana del Wombat. E quindi, insomma, per rendere omaggio a questa giornata così bella, vi mando un pezzaccio che mi fa sempre ballare. Devo dire, se lo ballo in mezzo a un prato, preferisco di gran lunga. Eccoci qua, con l'Uro dei Balcani, eccoci qua. Allora, ci siamo già salutati, ciao a tutti. Vi ho detto un po' di quello di cui parleremo oggi. Appunto, partiamo anche oggi dalla Romania. Dalla Romania perché c'è una notizia legata a tutti quei processi che si stanno svolgendo tuttora all'interno dei Balcani e che analizzano giudicano su tutte le guerre, battaglie, violenze che ci sono state nella fine del Novecento e l'inizio del 2000 in quel dei Balcani in generale. Infatti molto spesso io mi ritrovo qua a questi microfoni a parlare di questo, ma perché, riflettevo prima, è una cosa inevitabile. E sono le guerre più vicine a noi che ancora non sono state processate nel senso di analizzate in modo corretto in generale dall'Europa, dall'Occidente e dai Balcani stessi. Quindi è un divenire, è una storia che ancora si lega in parte al giornalismo, cioè a qualcosa che ancora non è stato storicizzato. E quindi spesso mi trovo a parlare di queste cose qua. Però è importante seguirle per rendersi conto poi quello che succede vicino a noi e insomma quali sono, ecco, le analisi che la storia per ora sta tirando fuori. Ebbene, l'ex presidente romeno Ion Ieliescu sarà processato per i crimini contro l'umanità insieme ad altri membri della leadership politica e militare che guidò la rivoluzione nel 1989 contro il dittatore comunista Ceaușescu. Prima ho detto Ceaușescu, ma che botta c'ho? No, Ceaușescu, certo. A 30 anni dalla rivoluzione romena, ormai a questo punto, e a ridosso peraltro della campagna elettorale per le elezioni europee che inizierà il 27 aprile, la procura militare romena ha annunciato di aver concluso l'inchiesta giudiziaria sul dossier Rivoluzione 1989. Di conseguenza i fascicoli verranno ora inviati al tribunale dove si apriranno i processi che verranno coinvolti, siamo all'inizio, coinvolti i principali leader della rivoluzione che fece cadere appunto il regime comunista di Ceaușescu. Tra questi in primis chiaramente l'ex presidente romeno Ion Ielescu, 89 anni a questo punto, e sarà processato per crimini contro l'umanità, accusa che riguarda il suo ruolo negli eventi dell'89. In questo modo la giustizia romena compie un proprio dovere d'onore rispetto alla storia, ha annunciato Augustin Lazar, che è il capo procuratore della Romania. L'inchiesta dei procuratori militari romeni rappresenta, a suo avviso, una visione limpida dei dossier storici della Romania. Quindi questo processo di storicizzazione, no? Che vi sto dicendo. Non è stato ancora comunicato invece la data in cui prenderà avvio il processo a Ion Ielescu, però è stato giudicato appunto colpevole. Le accuse: Ielescu è accusato di aver presieduto nel dicembre del 1989 la costituzione di un'organizzazione, il CFSN, il Consiglio del Fronte per la Salvezza Nazionale, il cui scopo era di conquistare il potere e allo stesso tempo di legittimarsi politicamente. E qui l'inghippo. Un'organizzazione che secondo i procuratori ha utilizzato la televisione per creare diversione e per la propagazione della disinformazione dopo la fuga di Ceaușescu da Bucarest, che avvenne il 22 dicembre appunto del 1989. Anche il processo e l'esecuzione di Nicolae Ceaușescu e della consorte Elena il 25 dicembre avrebbe fatto parte dell'operazione guidata da Ielescu. L'accusa ha riconosciuto il periodo di 5 giorni in cui Ielescu prese il potere dopo la fuga di Ceaușescu. Durante le manifestazioni contro il regime comunista vennero uccise 862 persone e altre 2150 sono rimaste ferite, ma solo 200 persone persero la vita, secondo i procuratori, per ordine di Ceaușescu. Quindi in questi scontri, quindi non stiamo mettendo in dubbio chiaramente le colpe di Ceaușescu, comunque Ceaușescu ordinò l'uccisione solo di 200 persone all'interno di queste manifestazioni, invece furono 862. Quindi qui la tesi appunto della procura nell'accusa. Alla popolazione venne comunicato che erano dei terroristi a fare queste uccisioni, terroristi misteriosi, senza volto, senza nome, un mistero che rimane anche a 30 anni di distanza. Secondo la procura questi fatti farebbero parte di una vasta azione di diversione e di disinformazione, e dietro vi sarebbe Ielescu ed altri leader della rivoluzione. Con sparatorie caotiche e fratricide si intendeva creare una psicosi generalizzata, si legge nell'inchiesta giudiziaria. Dopo la caduta di Ceaușescu, Ion Ielescu godette di grande popolarità, nonostante sia sempre stato accusato dai suoi avversari di aver confiscato la rivoluzione al popolo, cioè di essersi appropriato della rivoluzione per poi mettersi lui al potere, questo l'opposizione. Nel febbraio del 1990 Ielescu venne confermato presidente ad interim da un parlamento in transizione. Il 20 maggio dello stesso anno, come candidato del Fronte della Salvezza Nazionale, venne eletto capo dello Stato con l'85% dei voti. Ielescu, un ex membro della nomenclatura comunista, costruì a Mosca, e entra poi però in conflitto con Ceausescu negli anni 80, ricoprì questa carica dal 1989, quindi anno della rivoluzione, al 1996 e poi dopo una piccola pausa dal 2000 al 2004, anno in cui la Romania aderì alla NATO. Il presidente della Romania Klaus Iohannis, per lui l'arrivo di questi fascicoli del dossier Rivoluzione 89 in tribunale rappresenta un passo estremamente importante per stabilire la verità, perché si legge in un comunicato rilasciato dal palazzo Cotroceni, sede della presidenza, i crimini della rivoluzione non devono rimanere impuniti. Ad apprezzare le finalità dell'inchiesta da parte dei procuratori militari c'è anche il noto giornalista e analista politico Cristian Tudor Popescu. Popescu racconta di essere stato lui stesso chiamato per due volte a testimoniare e aggiungere di aver incontrato in quell'occasione dei procuratori militari decisi, professionali e determinati a trovare la verità. Questa è l'impressione del giornalista. Tranne Nicolae e Elena Ceausescu, nessuno doveva morire per colpi di arma da fuoco in Romania dopo il 22 dicembre. Perché invece ci sono stati dei morti? Si è chiesto appunto Popescu. Ai microfoni, questa è un'intervista che ho provato ad ascoltare ma non si capiva niente, di Radio Europa FM. Perché alcuni altri responsabili politici e militari avevano bisogno di coprire ciò che avevano fatto prima del 22 dicembre. Quindi porta, infatti è stato sentito dalla procura, porta delle altre prove di questo delitto. Il giornalista ha poi raccontato che sotto i suoi occhi erano morti inutilmente delle persone, mentre i proiettili rimbalzavano sull'asfalto e ti arrivavano in testa perché tutti sparavano contro tutti, non si capiva niente. Popescu poi ha raccontato che in qualità di giornalista chiese all'ex presidente Iliescu perché non avesse ordinato alla gente di ritirarsi nelle proprie abitazioni. Iliescu avrebbe risposto che non potevano prendere una tale decisione in quanto avrebbero perso la fiducia della popolazione. Ecco che per Popescu Iliescu preferì far morire la gente in strada piuttosto di prendere il proprio capitale elettorale, di perdere il proprio capitale elettorale. Tra i leader della rivoluzione dell'89 rinviati a giudizio per crimini contro l'umanità vi sono l'ex presidente Iliescu, come già detto, l'ex vice premier Ielu Voican Voiculescu, l'ex comandante dell'aviazione militare il generale Iosif Ruf, non rinviato a giudizio invece per mancanza di prove l'ex primo ministro Petre Roman. Il dossier sulla rivoluzione romena è composto da oltre 33.000 pagine. Secondo l'accusa, il Consiglio del Fronte della Salvezza Nazionale diede ordine all'esercito di sparare anche dopo il 22 dicembre, dopo la fuga a Nicolae Ceausescu. Non tutti concordano però con la conclusione dei procuratori militari, chiaramente. Andrei Ursu, che è il figlio del dissidente anticomunista Gheorghe Ursu, insieme ad altre 11 personalità romene, ha inviato una lettera aperta di proteste al procuratore generale Augustin Lazar. I firmatari chiedono perché nel dossier inviato al tribunale manchino proprio i membri della Securitate, l'ex polizia politica, che ha sparato alla gente nel dicembre del 1989. Quindi sarebbero gli autori, anzi quelli che poi hanno messo in atto queste 200 uccisioni commissionate da Ceausescu, dicono. Abbiamo notato con stupore che dall'accusa mancano i principali colpevoli, responsabili delle 1200 vittime della rivoluzione, cioè i membri del Dipartimento della Sicurezza dello Stato, si legge nella lettera aperta, che i firmatari ritengono un insulto. La pretesa di sostenere che chi allora sparava non sapeva cosa stava accadendo. Durissima la reazione da parte del partito, chiaramente socialdemocratico, che è a potere in Romania, cioè il PSD, che difende dalle accuse chiaramente Iliescu, fondatore e presidente d'onore del partito. I leader del PSD accusano il procuratore generale della Romania, che è appunto Augustin Lazar, di essere stato ex agente della polizia politica comunista, e allo stesso tempo accusano presidente Klaus Iohannis di essere il protettore dei securisti e degli esponenti dell'apparato repressivo di Ceausescu. Quindi è in divenire questa analisi della storia. Ci sono tutte le reazioni delle varie parti, sono chiaro che ci sono degli interessi dietro. Il PSD, se accetta queste accuse, chiaramente accetta le accuse anche verso se stesso, perché il fondatore e il presidente d'onore del partito, appunto, Iliescu, quindi o lo ripudiano cosa difficile, anzi quasi impossibile, oppure chiaramente avversano. Quindi chiaramente questo è solo il primo grado, quindi voglia ancora ce n'è di tempo per vedere e capire che cosa è avvenuto veramente. Però insomma questa è una notizia che c'è una smossa dopo 30 anni appunto per quanto riguarda l'analisi storica anche e sociale di quel periodo in Romania. C'è anche quest'altra storia che vi dicevo prima in apertura, legato alla chiesa, a questa chiesa che venne spostata per fare spazio a niente poco di meno che il grandissimo Parlamento che commissionò proprio Ceausescu, ma ne parliamo dopo, direi. Ne parliamo dopo e direi che io mandiamo un altro pezzo, mi fa impazzire. Un altro pezzo mi fa impazzire, assolutamente. Ceausescu, ricordatevelo. I can change the world with my own two hands, make a better place with my own two hands, make a kinder place. Oh, with my own two hands, with my own two hands. Eccoci qua, buon tuco ai microfoni fuoco alle polveri, ben trovati. Se vi siete appena collegati, abbiamo appena parlato di Romania, ma non ci fermiamo qua. Come vi dicevo prima, ritiriamo fuori una vecchia storia. Una vecchia storia, già abbiamo parlato fuoco alle polveri. appunto di una storia divertente tutto sommato. Allora, abbiamo parlato di Ceausescu prima, no? Di quel periodo della rivoluzione nel 1989, di quando fu scalzato dal potere, appunto, il dittatore Ceausescu. E tale dittatore chiaramente si è guadagnato la fama anche grazie a alcune sue azioni. Una delle più eclatanti fu la costruzione del Palazzo del Parlamento. Palazzo del Parlamento, che si trova chiaramente a Bucarest, è la struttura, tra l'altro, ha un primato, è la struttura più pesante al mondo, con una superficie di 350.000 metri quadri. È anche il secondo edificio più grande del mondo per estensione e il terzo per volume. Dice la valutazione immobiliare non ancora ultimata di circa 3 miliardi di dollari. Insomma, è un palazzo gigantesco. Un po' di misure, io sto guardando semplicemente su Wikipedia per quanto riguarda le misure. Misura 270x240 metri, alto 84 metri, metri sì. E si estende per 92 metri sotto il suolo. Cioè, 92 metri sotto il suolo. Quindi è una cosa enorme, 700.000 tonnellate di acciaio e bronzo per porte e finestre, 900.000 metri cubi di legno per il parquet e per i rivestimenti. Ha una storia ganza, no, tremenda, è il fatto che per tutto il marmo che è servito, per un diverso tempo non hanno più potuto fare tombe in marmo, perché l'aveva finito tutto Ceausescu nella costruzione del suo parlamento. E quindi, però, chiaramente un palazzo del genere, cioè una struttura del genere, per forza cambia il paesaggio. Se poi la fai in un posto popoloso come la capitale, è un casino. Devi spostare un sacco di gente, un sacco di persone. Se non erro 30.000 persone furono spostate. Una cosa del genere, ricerco questo dato. Ma anche e soprattutto edifici, cioè o si buttano giù o si spostano. Però spostare gli edifici, che stai dicendo? Non si può spostare gli edifici. E invece c'è chi ce la fece. C'è chi ce la fece, e era proprio il Eugenio Iordanescu, l'angelo che salvò la chiesa dalla furia comunista. Questo è il titolo di uno degli articoli che ho trovato. La storia in sé però è carina. Ha salvato, dice, circa 12 chiese antiche, gioielli architettonici che si trovano nell'area destinata alla costruzione, si trovavano nella costruzione del palazzo, appunto, del popolo di Bucarest. Era il marzo del 1977, quando un forte terremoto colpì la capitale romena. Il dittatore Ceausescu ne fu terrorizzato. I suoi consiglieri lanciarono l'idea di costruire una sorta di fortezza camuffata da centro politico amministrativo, che fosse in grado di proteggerlo da situazioni a rischio. Dopo mesi di studi, il team di ingegneri giunse alla conclusione che per far spazio al nuovo complesso era necessario demolire 7 km quadrati di edifici e trasferire, eccolo qua il dato, 30.000 residenti. I lavori per la mega struttura iniziarono negli anni 80 e fino all'89 furono demoliti migliaia di edifici, tra i quali opere architettoniche di valore storico. All'epoca Iordanescu, che è il nostro protagonista, era uno dei responsabili dell'ufficio progetti della capitale, e il pensiero che sarebbero stati distrutti numerosi edifici legati alla tradizione del suo popolo lo tormentava. Poi venne il bel giorno. L'idea, dice, mi venne come un dono, una grazia di Dio. Chiaramente, se ha voluto spostare le chiese, lui ci credeva. Però sicuramente erano chiese molto molto antiche, quindi da preservare. Appunto, grazie a Dio gli manda l'idea, sbam! Dove gliela mandò? Gliela mandò quando era al ristorante. Praticamente lui si mise a osservare in un ristorante pieno di gente i camerieri che si muovevano con agilità, portando i vassoi con i bicchieri pieni senza far cadere una goccia, no? Come fanno i camerieri. Ecco la soluzione, dice. Tagliare le antiche fondamenta, sollevare l'edificio, infilarci sotto un vassoio, imbracare il tutto e portare altrove. Cioè, con questo bel vassoio sopra una chiesa, spostare la chiesa stessa. Non è una cosa facile, anche perché come diavolo la sposti questa chiesa? gli venne in mente di costruire delle rotaie su cui far scivolare questo vassoio e spostare. Il primo edificio salvato fu la chiesa di Chitul Maecilor, che risale agli inizi del XVIII secolo. La sua demolizione sarebbe stata un disastro, ha ricordato l'ingegnere. Avremmo perso un monumento del 1726, mentre i media stranieri stavano già criticando quello che avveniva a Bucarest. Così l'edificio che pesava 745 tonnellate, cioè non più grandi, fu spostato di 250 metri appena fuori dalla zona che doveva essere abbattuta. Fu un successo anche internazionale, chiaramente, insomma, fece scalpore, perché questo metodo era la prima volta che veniva usato. Già prima leggevo se non venivano usati altri, cioè erano già stati spostati degli edifici con un sistema di travi, se non sbaglio, messe a rete, però mai spostato tutto un edificio proprio a partire dalle fondamenta. Questo non l'avevano mai fatto, e quindi chiaramente fece scalpore. Elena Ceaușescu, che è responsabile della distruzione della chiesa di Venerdì Santo, perché Elena, che avvenne nel 1987, anzi, perché la fece distruggere, giusto? L'antico edificio era luogo che da sempre raccoglieva fedeli e visitatori, finì peggio che nel film di Don Camillo. La gente del quartiere scese in strada a protestare e accendere delle candele attorno all'edificio, non curante della polizia, perché quando è troppo è troppo. Gli operai, persino i soldati, si rifiutarono di salire sul bulldozer, e le autorità comuniste, per condurre a termine lo scempio, dovettero arruolare i detenuti. Questa è la storia che viene raccontata da un po' all'interno di questo articolo, che risale invece a una chiesa che non venne salvata, che ancora non era stata, che era stata distrutta precedentemente, e fu opera proprio di Elena Ceaușescu, cioè la moglie del dittatore, e è una storia che fece scalpore in Europa, perché chiaramente erano i cattivi comunisti che aggredivano i poveri cristiani. Comunque la storia invece di Iordanescu era per un valore invece proprio simbolico di qualcosa che aveva un senso lì nella comunità, e la costruzione di questo palazzo enorme lo aveva spinto a cercare un'idea, che gliel'abbia mandato Dio o meno non lo sappiamo, però fu un'idea interessante, che è poi stata utilizzata per degli spostamenti per situazioni molto più precarie in giro per il mondo, e magari un giorno le ripercorriamo insieme. Quindi questa era la storia, appunto, di Ionescu. Ricerchiamoci poi insieme, se la trovate, se trovate la puntata di Fuoco alle Polveri dove ne parlavo, segnalatemela, così poi ci metto l'hashtag giusto, perché all'epoca mettevamo degli hashtag del cavolo e quindi non riusciamo più a ritrovarli. Va bene, allora vi do un'altra notizia al volo invece, che riguarda i Balcani in generale, appunto, come vi dicevo, perché i ministri delle telecomunicazioni dei Balcani occidentali hanno raggiunto a Belgrado l'accordo, appunto, riguardante la rimozione graduale di tutte le tariffe riguardanti il roaming nella regione. Quindi è quella cosa che già qui in Europa noi abbiamo, insomma, per la parte europea è stata raggiunta, ma neanche da tanto. E quindi abbiamo smesso di essere un po' derubati dalle compagnie telefoniche, un po' meno, ma continuano a derubarci. Nei Balcani invece continua ad andare avanti. Invece c'è stato un accordo tra Albania, Bosnia, Kosovo, Macedonia e Macedonia del Nord, Montenegro e Serbia, che praticamente ridurranno e ammortizzeranno le tariffe di telefono, messaggi e di gigabyte. L'accordo entrerà in vigore dal prossimo 1 luglio con tariffe ridotte. Dal 1 luglio invece 2021 tutte le tariffe riguardanti il roaming verranno rimosse nell'ambito del programma Roaming Like at Home. Dal prossimo 1 luglio le chiamate avranno un costo di 19 centesimi al minuto, i messaggi avranno un costo di 6 centesimi ognuno, mentre un megabyte a internet avrà un costo di 22,5 centesimi, tariffe che sono di gran lunga ridotte, perché quelle prima sfioravano ad esempio 2,5 euro al minuto per le chiamate. E questo ci aiuterà anche perché l'altro giorno, quando abbiamo sentito nella puntata numero 1, sì, Alfred Bushi, che saluto nuovamente, ci ha raccontato delle proteste in Albania, è stato un casino perché a chiamare si spendeva un sacco, quindi sono molto contento. Questi, insomma, è uno gli sforzi precedenti per raggiungere questo accordo, aveva riguardato solo alcuni paesi, non l'intera regione. e si complicarono a causa dei rapporti tra Serbia e Kosovo, che poi vi sto raccontando anche ora, in realtà stanno molto stridendo, però per fortuna questo accordo è andato in porto lo stesso. Tuttavia Serbia, Macedonia, Bosnia e Montenegro raggiunsero un accordo già nel 2014, riducendo dell'80% le tariffe del roaming. Insomma, questa è la notizietta, così, no, un po' son, di novità appunto dai Balcani in generale. È stata appunto a Bucarest, è stato trovato questo accordo, ci stava di farlo sentire. Allora, adesso secondo me è arrivato il momento invece di sentire qualcosa di tranquillo, no? Di qualcosa di, non so, di interno, che arriva dall'interno. Mi fa uno questo effetto. Andiamo alla ricerca di Rivers of Babylon con i Boney Ham. E sulle rive del fiume, come mi piacerebbe essere a me in questo momento, sinceramente. E questi erano i Boyneham on the River, Rivers of Babylon. Stavamo parlando appunto di Iordanescu e della sua fantastorica storia in cui ha spostato una chiesa proprio di netto alle fondamenta, brava, e l'ha spostata di 245 metri. Allora, prima io cercavo appunto dei dati in generale su quei numeri e vi ho letto un po' di questo articolo, ma è tremendo questo articolo. Comunque, io se posso darvi un consiglio, www.tempi.it, tremendo. Ho letto un altro paio di articoli veramente poco oggettivi, e anche questo era poco oggettivo. Infatti non dicevo una cosa tra l'altro interessante, perché in tutto ciò Iordanescu non è che ha spostato solo chiese, come la metteva l'articolo lì. Infatti il post è molto più stringato, molto più asciutto chiaramente, e professionale. Però ci racconta anche che la squadra guidata da Iordanescu riuscì anche a spostare una chiesa del XVI secolo con tanto di torre campanaria, un monastero di 9.000 tonnellate che venne traslato di 24 metri, una banca, un ospedale e alcuni condomini, e sentite un po', a volte anche con le linee dell'acqua e del gas ancora collegate e le persone dentro, cioè ha spostato dei condomini con le persone dentro. Questa è una notizia incredibile. Maledetto tempi.it. Quindi consiglio, non andate lì, ma piuttosto cercate altrove. Sono in vena un po' di consigli, allora vi segnalo due cose. Vi segnalo uno, appunto, questo un bel reportage video che potete trovare su balcanicaucaso.org, che riguarda l'Albania e si intitola Noi Donne. Da 3 anni il programma Women, acronimo, implementato da RTM, sostiene gruppi di donne in zone montane del nord dell'Albania, e ciò ha reso possibile le loro idee imprenditoriali, ha reso possibile un futuro della speranza. Vi raccontavo, no, del fatto, quando abbiamo parlato delle proteste studentesche in Albania, quando si diceva qui in Italia, chiaramente sbagliando secondo noi analisi, che fosse un nuovo 60, come il 68 italiano, invece diceva, insomma, analisti storici dicevano invece che no, non si può fare un paragone del genere, anche perché sono due condizioni storico socio-economiche completamente diverse. Infatti l'Albania non ha un boom economico diffuso e omogeneo come l'Italia degli anni 60, ma anzi è più spostato nelle grandi città, mentre la campagna spesso rimane molto indietro, a livelli veramente rurali, ai limiti della sussistenza. E quindi questo progetto va proprio nell'Albania più sperduta e montana, e aiuta le donne a lavorare, a crearsi un lavoro e a mantenersi e, insomma, a migliorare poi tutto quello che è quella parte di territorio. Tra l'altro il territorio ancora inesplorato, diciamo, non battuto troppo dai turisti, quindi bellissimo da visitare. Poi ci sarebbe tutto da ragionare, allora, anzi, facciamo i turisti, andiamo a fare i turisti a spendere, giusto, non è giusto, lascio a voi chiaramente di trarre conclusioni o meno su questo. Però, insomma, vi segnalo di andare a vederlo, perché ci sono proprio queste donne che raccontano la loro esperienza, e è fatto molto bene, dura poco, 11 minuti, veramente una chicchetta, e potete vedervi così velocemente. Altra cosa invece che volevo dirvi, no, era questo era il consiglio che volevo darvi. Passiamo al prossimo argomento invece. L'altro che vi dicevo anche in apertura è il, tra l'altro vorrei sapere, mozza mai, se ha qualcosa da raccontarmi in merito, il New East Photo Prize, che è un concorso dedicato ai reportage fotografici realizzati nei paesi dell'est del mondo, quindi non solo i Balcani ma anche Europa orientale, Russia, quindi poi quello che poi noi stiamo analizzando nei Balcani, ma anche Asia centrale. Alla sua prima edizione gli 11 finalisti sono stati selezionati tra più di 1000 proposte provenienti da 25 luoghi diversi. I lavori dei finalisti, che esplorano i cambiamenti sociali, culturali e geografici dell'est del mondo, sfruttano il linguaggio della fotografia per far conoscere nuove prospettive e diverse percezioni. Il fotogiornalista bosniaco Zia Grafik è stato selezionato per il lavoro Bosnia, Paradise Lost, in cui l'autore ha voluto riflettere sulla sua città, Sarajevo, di cui abbiamo parlato chiaramente svariate volte, attraverso le persone che hanno vissuto la guerra e le nuove generazioni nate dopo il conflitto. Katrina Kepule, con Sit Silently, un lavoro sulle periferie di Riga, in Lettonia, ma che secondo la giuria del premio potrebbe essere il racconto delle periferie di tutta l'Europa. E ancora, Trans, che è il nome d'arte di Vladimir Vasilev, di origini bulgare, che ha passato gli ultimi 3 anni a Parigi. Partendo dalla sua esperienza personale, l'autore riflette sulla convivenza fra tradizione e novità in Bulgaria. Un ritratto del paese diviso tra i cambiamenti dovuti all'entrata dell'Unione Europea, che è avvenuta nel 2007, dopo quasi 45 anni di dittatura, e la volontà di restare fedele alla propria identità. Le immagini sono esposte a Londra, però insomma se ne può avere sul sito internazionale un assaggio, e sono foto secondo me così da dargli un occhio, interessanti comunque, ne hanno messe pochine, devo dire, avrei preferito vedere qualcosa di più, però è anche magari divise, però andatevele a vedere, è sull'internazionale pubblico, quindi potete vederle tutti. Quindi questa era l'altro consiglio che vi davo. Allora, ci avviamo verso la fine e andiamo a parlare di nuovo di Serbia, perché 20 anni fa, davanti alla sua abitazione a Belgrado, veniva ucciso il giornalista editore Slavko Kurucha. E ci sono appunto delle novità per quanto riguarda questo delitto. È arrivato il primo grado, fondamentalmente la condanna di primo grado. E a questo giornalista, che era anche editore, appunto, e sono stati condannati 4 ex membri dei servizi segreti serbi. E fu un omicidio di Stato, secondo i giudici. Quindi è una cosa importante, perché quando si parla di omicidi di Stato, appunto, anche come nel caso precedente della Romania, fa parte di tutto questo processo di analisi del vicino passato, che è ancora in atto, soprattutto nei Balcani. 4 anni dopo l'inizio del processo per l'omicidio del giornalista Slavko Kurucha, e 20 anni dopo il delitto avvenuto davanti all'abitazione dello stesso, la sezione speciale per i reati di criminalità organizzata dell'altra corte di Belgrado, alta corte di Belgrado, non altra, l'alta corte di Belgrado, ha condannato 4 imputati, ex membri dei servizi segreti serbi, ad un totale di 100 anni di reclusione. Si tratta della prima sentenza, che però viene emessa a carico di ex agenti dei servizi segreti. La particolarità è questa: con questa sentenza la corte ha confermato che l'omicidio di Kurucha fu un delitto di Stato. Dagli anni 90 ad oggi in Serbia sono stati brutalmente uccisi altri 2 giornalisti, che sono Dada Vujasinovic e Milan Pantic. Milan Pantic, secondo me ne abbiamo parlato a un certo punto. Questi omicidi rimangono a tutt'oggi irrisolti. L'ex capo dei servizi segreti serbi, che è Radomir Marković, è stato condannato a 30 anni di reclusione per l'omicidio, appunto, di Kurucha. E la stessa pena è stata comminata anche a Milan Radojic. Radonjic, all'epoca dei fatti, era il capo dell'ufficio dei servizi segreti di Belgrado. I 2 ex agenti di servizio segreti, Ratko Romic e Miroslav Kurak, sono stati invece condannati a 20 anni di reclusione ciascuno. Radomir Marković sta già scontando una pena di 40 anni di reclusione per concorso nell'omicidio dell'ex presidente serbo Ivan Stambolic e nel tentato omicidio di Vuk Drašković, leader del movimento serbo di rinnovamento, che è il principale partito di opposizione negli anni 90, e nonché per l'omicidio di 4 funzionari dell'SPO, appunto sempre lo stesso partito. Miroslav Kurak è stato giudicato in contumacia, in quanto invece è latitante, non l'hanno beccato, non l'hanno trovato, non l'hanno preso. Si tratta di una sentenza di primo grado e i condannati chiaramente, sicuramente faranno ricorso in appello, ma riveste comunque una grande importanza, perché conferma che durante il regime di Milosevic le istituzioni statali e i servizi di sicurezza furono direttamente coinvolti nell'omicidio di persone sgradite al potere, compresi i giornalisti. Tuttavia, non è ancora stata fatta piena luce sui mandanti dell'omicidio del giornalista. È difficilmente immaginabile che Radomir Marković avesse ideato e organizzato l'omicidio da solo, perché i servizi segreti di cui Marković era capo erano sotto il diretto controllo dell'allora maggioranza del governo, guidata da Milosevic. Quindi Marković è stato condannato come mandante dell'omicidio, ma anche egli probabilmente agiva per ordine di qualcuno, se non dello stesso Milosevic, di qualcuno dei piani alti, appunto, della maggioranza di governo. I mandanti, persone che tutti noi riteniamo fossero i mandanti, non sono mai stati citati né accusati ufficialmente, e per questo motivo io e la mia famiglia non potremo mai essere pienamente soddisfatti. Tuttavia, credo che questo sia un grande giorno, un giorno importante per me, ma anche per il nostro paese, perché oggi il collegio giudicante ha inviato un chiaro messaggio alla società, allo Stato e ai giornalisti, ed è da questa prospettiva che guardo alla sentenza. Queste sono le dichiarazioni di Yelen Gurovja, che è la figlia chiaramente del giornalista. I mandanti ai quali si riferiva sono, secondo un'opinione abbastanza diffusa e condivisa, i membri della famiglia Milosevic. Ma dal momento che non vi è alcuna prova materiale né testimonianze che attestino il loro coinvolgimento nell'omicidio, non si è potuto procedere penalmente nei loro confronti. Radončić, Kurak e Romić sono stati condannati per aver partecipato all'organizzazione dell'omicidio del giornalista, ma non si conosce ancora l'identità dell'esecutore materiale del delitto, cioè chi gli ha sparato, ovvero della persona che uccise sparandogli in testa da dietro, non esecuzione. Marković sicuramente conosce la verità sull'esecutore e sui veri mandanti dell'omicidio, ma sia lui che Radončić hanno deciso di tacere. È evidente che tra gli ex membri dei servizi segreti regna ancora una sorta di omertà, ma questa sentenza dimostra che non hanno più alcuna influenza sull'opera delle istituzioni statali, che non è poco. Questo era già emerso nel 2008, quando Marković fu condannato per il tentato omicidio di Vuk Drašković, che era l'altro giornalista che vi ho detto prima. Marković finirà di scontare questa condanna nel 2041, all'età di 90 anni. Boia. Il presidente serbo Aleksandar Vučić, eccolo, lo stavamo aspettando, chiaramente, uno dei nostri obiettivi di critica preferiti ultimamente, al tempo dell'omicidio di Kurovča, il giornalista, era ministro dell'informazione e un fervente sostenitore della linea dura contro i media non allineati al potere, come appunto questi giornalisti. In questo periodo i media indipendenti venivano puniti con sanzioni draconiane allo scopo di portarli alla bancarotta. Facevano delle sanzioni pecuniarie enormi, per cui poi finivano per la strada e smettevano di fare quel lavoro. Tra i principali bersagli di questa strategia furono i giornali di Slavko Kurovča. Allora, vi leggo i quotidiani, attenzione: Evroplanin e il Dnevni Telegraf. Yelen, il giornalista, ritiene che Vučić sia in parte responsabile. Cioè, Yelen, la figlia, scusate, del giornalista, ritiene che Vučić sia in parte responsabile dell'omicidio di suo padre e sottolinea che nel periodo precedente all'omicidio i giornali di suo padre furono oggetto di sanzioni draconiane. Quindi ad opera di Vučić stesso, che era il ministro dell'informazione. 20 anni dopo l'omicidio, Vučić sembra uscire vincitore dall'intera vicenda, perché durante la sua presidenza è stato fatto un importante passo avanti verso l'accertamento della verità, quindi lui sta facendo bella figura, tutto sommato, ahimè. Vučić ha ammesso di aver fatto degli errori come ministro dell'informazione, sostenendo tuttavia di non essere stato al corrente dei preparativi dell'omicidio, perché tali azioni venivano organizzate all'interno di una ristretta cerchia di fedelissimi di Milosevic, alla quale lui non apparteneva. Furbo Vučić. Vučić non ha mai smesso di scagliarsi duramente contro i giornalisti e i media. Ne abbiamo parlato, l'accentramento nei media, come tratta appunto i manifestanti, no? Dicevano che erano degli svogliati. Vučić non ha mai smesso di scagliarsi appunto contro i giornalisti e i media, il cui modo di fare informazione non gli piace, ma le autorità hanno fatto passi avanti per quanto riguarda la protezione dei giornalisti negli ultimi periodi. Quindi non ci sono più gli omicidi prima, ma comunque sappiamo che le pressioni sono ingenti. Da qualche anno è attivo anche il gruppo di lavoro permanente per la protezione dei giornalisti, composto dai rappresentanti del Ministero dell'Interno, della Procura e dell'Associazione dei giornalisti. Il gruppo è stato istituito con l'obiettivo di facilitare la comunicazione tra gli organi competenti e i giornalisti sottoposti a minacce e attacchi, nonché di contribuire alle indagini e di incoraggiare i giornalisti a denunciare le minacce ricevute. Il sistema funziona abbastanza bene e risulta efficace nei casi di esplicite minacce all'incolumità dei giornalisti, ma non è in grado di proteggere dalle dure campagne denigratorie che la leadership al potere, compresi i più alti funzionari statali, e i media filogovernativi conducono incessantemente contro i media indipendenti. E poi sappiamo il controllo che lui ha su questi stessi ministeri che si occupano di questa protezione, quindi sì, funziona bene, ma ho i miei dubbi, insomma, che protegga davvero chi deve essere protetto. Gli attacchi ai giornalisti non cessarono con la caduta del regime di Milosevic. Nel 2001 fu ucciso appunto Milan Pantic, mentre nel 2007 sotto la finestra dell'abitazione del giornalista del quotidiano Vreme, Dejana Anastasievich, furono piazzate due bombe col chiaro intento di ucciderlo. L'anno scorso è stata data alle fiamme la casa di Milan Jovanovic, giornalista del portale InfoZig di Groca nei pressi di Belgrado. Come mandante dell'atto intimidatorio è stato identificato il sindaco di Groca, Ljubodrag Simovic, che aveva già minacciato Jovanovic diverse volte. L'omicidio di Milan Pantic invece non è mai stato risolto. Resta ignota anche l'identità dell'autore dell'attacco dinamitardo ai danni di Anastasievich, mentre il caso dell'attacco contro Jovanovic non è ancora giunto a un epilogo giudiziario. E quindi sì, è stato riconosciuto colpevole, ma ancora non è finito il processo. Quindi c'è la tesi dell'accusa. Gli attacchi e diversi tipi di minacce a cui sono sottoposti giornalisti e media indipendenti in Serbia sono parte integrante di un sistema di pressioni finalizzate a imbavagliare l'informazione libera. Ed è per questo che le associazioni dei giornalisti serbi insistono sulla necessità che le autorità competenti indaghino su ogni caso di minacce e pressioni contro i giornalisti e media. Così facendo, lo Stato dimostrerebbe di essere pronto a proteggere i giornalisti. La polizia reagisce tempestivamente alle segnalazioni di attacchi contro i giornalisti, ma raramente si giunge a un epilogo giudiziario. Ne abbiamo parlato anche della storia delle molestie sessuali alla segretaria di un sindaco vicino a Vucic, che tranquillamente continua a fare il suo lavoro, quindi non ci stupisce, ecco. Le campagne condotte contro i media e i giornalisti indipendenti hanno forti ripercussioni sulla situazione del giornalismo nel paese, ma questo problema non può essere risolto dalla polizia né tantomeno dalla procura. In breve, i giornalisti serbi sono soddisfatti per le sentenze nel processo per l'omicidio di Kurusha, ma non sono nemmeno lontanamente soddisfatti dalle condizioni in cui lavorano, cioè hanno ancora paura e subiscono pressioni giornalmente. Questa sentenza porta contentezza nelle file dei giornalisti, ma siamo lontani da essere in una situazione di libertà di stampa e di opinione. Ahimè. E quindi riposiamo un attimo gli orecchi con direi assolutamente sì, Red Hot Girl Robot. Can I make the time for me to come and get it, bless her mind? She spoke to me in such a simple and decisive tone. Her sweet admission left me feeling in position. Ed eccoci qua, avete sentito Go Robots dei Red Hot Chili Peppers. Il quale video mi dà sempre questa sensazione personalissima, analisi di quel video, probabilmente sbagliata, di questo manichino che si anima e poi alla fine va in giro stranito, nessuno capisce. Poi arriva in questo locale e incontra una manichina femmina e tramite solo le movenze, perché non parlano, sono manichini, creano questa sensazione di amore passionale, molto più passionale di tutti quelli che li circondano. Quindi alla fine i manichini veri, secondo me, sono quelli intorno e non loro due. Personalissimo, ribadisco. Allora, siamo in chiusura, però iniziamo a parlare un po' di un fatto. Perché il 24 marzo 2019, cioè per la ricorrenza, scusate, dei bombardamenti della NATO sulla Jugoslavia, perché il 2019 è l'anniversario, appunto. 24 marzo 1999 cominciarono i bombardamenti dell'Alleanza Atlantica contro la Jugoslavia, che era guidata da Milosevic, appunto, di cui parlavamo anche prima, che durarono 78 giorni, bombardamenti in cui noi italiani abbiamo avuto un gran bel ruolo, ahimè. Il paese di cui ormai faceva parte solo le due repubbliche di Serbia e Montenegro portava ancora il nome di quella che tra il 45 e gli anni 90 era stata la Repubblica di Tito, la Repubblica Jugoslava. La federazione si era disintegrata a causa del tentativo del nazionalismo serbo di imporre la sua egemonia alle altre repubbliche, ma non solo, anche per ingerenze esterne. L'attuale presidente Vucic è Riacalo. Oggi è considerato l'Europa un pilastro per la stabilità del paese, infatti ci sono proteste, sappiamo quali nefandezze fa, nonostante questo è considerato bene dall'Europa, quindi ha tutta questa contraddizione che abbiamo nell'analizzare i nostri vicini. Nel marzo del 1999 Vucic era il ministro ultranazionalista dell'informazione, come dicevo prima, di Milosevic. Il malefico, terribile, sovversivo e codardo attacco dell'esercito della NATO contro la Serbia e la Jugoslavia, dichiarò quel giorno, il 24 marzo, Vucic, non ancora trentenne, è la prova delle politiche neonaziste degli Stati Uniti e dei loro satelliti. La Serbia si difenderà contro gli aggressori e sconfiggerà il nemico. In occasione del ventesimo anniversario, oltre le lacrime di Vucic, che ha versato queste lacrime di coccodrillo, si è commosso ricordando nella città di Nice il bombardamento, che era accompagnato da un ufficiale dell'esercito rimasto invalido in quel conflitto. Al di là, appunto, di queste lacrime, ci sono state in Serbia anche altre manifestazioni, oltre al ricordo in questo senso dei bombardamenti, come quelle di alcune decine di attivisti serbi che hanno voluto ricordare le migliaia di vittime civili tra gli albanesi e del Kosovo, che in quel conflitto circa 10.000, con una commemorazione nel centro della capitale di Belgrado, che in quel conflitto appunto persero la vita. Il bombardamento della NATO sulla piccola Jugoslavia di Milosevic fu solo l'ultimo però dei conflitti che nei Balcani negli anni 90. Dal 1991 si combatté prima, anche se un po' più blandamente, in Slovenia. Poi fu la volta della sanguinosa guerra in Croazia. E infine in Bosnia, un conflitto che durò dal 92 al 95, quindi più di 3 anni, che provocò almeno 100.000 morti e 2 milioni di profughi. Alla fine arrivò il conflitto in Kosovo nel 98, che provocò l'intervento appunto occidentale diretto il 24 marzo del 1999. Ma in realtà il decennio di guerra in Jugoslavia era cominciato proprio in Kosovo. E non finisce in Kosovo. Da quella provincia meridionale della Serbia, abitata in maggioranza da albanesi, era cominciata l'ascesa del burocrate comunista Slobodan Milosevic, che aveva deciso di interpretare i sogni di egemonia della comunità più popolosa della Jugoslavia, i serbi, e di costruirci sopra una carriera politica che era fondata sul nazionalismo. Infatti il discorso di Milosevic nel 1989 a Kosovo Polje, che è la piana di Merli, per celebrare il 600° anniversario della sconfitta contro i turchi del principe serbo Lazar, di fronte a 1 milione di serbi accorsi da tutto il paese, annunciava già delle battaglie, proprio in un periodo di crescente tensione tra serbi e albanesi che vivevano in quella provincia. E gli disse: sei secoli dopo, oggi, siamo ancora coinvolti in nuove battaglie. Non sono ancora conflitti armati, sebbene queste cose non possano essere ancora escluse. Ma perché la dissoluzione della Jugoslavia cominciò proprio in questa provincia, nel Kosovo? In Kosovo gli albanesi erano circa 1.600.000, i serbi circa 200.000. Dopo decenni di dominio dei serbi nella pubblica amministrazione, già nel 1968 il presidente Tito aveva deciso di allentare la tensione sulla provincia e di garantire maggiore autonomia a livello culturale, amministrativo e linguistico. Il processo aveva portato alla Costituzione nel 74, che riconosceva, oltre alle sei repubbliche della Jugoslavia, due province autonome all'interno della Serbia, cioè il Kosovo e la Vojvodina. Ma questa concessione di Tito aveva aumentato i timori dei serbi, che si trovavano in minoranza in una provincia dove consideravano che ci fossero le radici delle loro cultura. E quindi abbiamo detto il rapporto era 200.000 a 1.600.000 serbi contro albanesi, e loro ritenevano invece il Kosovo fosse proprio dove è nata. Infatti la piana dei Merli, cosparsa da monasteri ortodossi, è considerata terra santa e culla della nazione serba. Questo spiega anche tutto quello che di cui abbiamo parlato, quindi tutte le tensioni tra Serbia e Kosovo, che poi hanno portato ai dazi, alla guerra dei dazi che vi raccontavo, che ci sono stati, anche al riarmo dell'esercito kosovaro da parte degli Stati Uniti d'America. Kosovo che ancora che è riconosciuto da alcuni paesi, ma non da tutti. Quando Slobodan Milosevic e la leadership politica e militare di Belgrado decisero di affrontare le tensioni nate dopo la morte di Tito, che è avvenuta nel 1980, tra le repubbliche della Jugoslavia e la grave crisi economica che attraversava il paese, cercando di imporre il potere della Serbia alimentando il nazionalismo sia dei serbi, Milosevic alimentava il nazionalismo sia dei serbi che vivevano in Serbia, sia di quelli nelle altre repubbliche e province della Jugoslavia, cioè principalmente Croazia, Bosnia e Erzegovina e Kosovo. Simbolicamente dovevano quindi cominciare dalla provincia a maggioranza albanese, Milosevic, se voleva portare avanti questa sua campagna nazionalista, perché partiva dalla Terra Santa, appunto. Fu così che dai primi anni Ottanta si mise in moto un meccanismo impazzito in cui l'aggressivo nazionalismo serbo alimentava le voglie indipendentiste dei croati e degli sloveni, che a loro volta davano nuovo alimento alle paure dei serbi di vedere il proprio popolo smembrato in tre identità statali indipendenti. Quindi da una parte alimentava il nazionalismo serbo, che alimentava le voglie indipendentiste croate e slovene, che a sua volta quindi rialimentava nazionalismo serbo. Tutto questo meccanismo Prijević definisce meccanismo impazzito, appunto. Nel marzo del 1989 l'autonomia del Kosovo voluta da Tito fu di fatto sospesa da Milosevic, di diritto lo fu nel settembre del 90, quindi l'anno dopo. Centinaia di decreti privarono gli albanesi della provincia non solo dell'autonomia, ma anche di gran parte dei loro diritti, a partire da quello di usare la loro lingua madre. Perquisizioni, arresti di massa e torture divennero quindi la quotidianità. Molti kosovari emigrarono, mentre altri organizzarono un sistema scolastico ed educativo parallelo e clandestino nella loro lingua, e una resistenza passiva e non violenta alla repressione voluta da Belgrado. Fu la strategia di Milosevic sul Kosovo a convincere la Slovenia e la Croazia che non si poteva trattare con la leadership serba e a intraprendere la strada verso l'indipendenza. Quindi questo alimentare circolare che vi dicevo. In questo clima il Kosovo assiste impotente alle guerre jugoslave, mentre Ibrahim Rugova si imponeva come leader politico pacifico nella provincia. E infatti nel 96 cominciò le sue attività il gruppo guerrigliero dell'UCK, che avrà poi un ruolo importante nelle vicende della guerra della NATO, perché erano una delle scusanti per questo attacco, la guerriglia che l'UCK faceva. Quindi capire qual è stato il ruolo del Kosovo nella fine violenta della Jugoslavia aiuta anche a capire gli altri conflitti degli anni 90. Il loro epilogo è anche e anche alcune delle ragioni dell'intervento della comunità internazionale in quella guerra. 178 giorni di bombardamenti, 78 giorni di bombardamento da parte della NATO sulla Jugoslavia di Milosevic, quindi vanno inseriti in questo contesto, che vi ho dato un incipit, un'infarinatura di base. quell'intervento può essere legittimamente considerato sbagliato, controproducente, persino criminale, moralmente o giuridicamente ingiustificabile, oppure inadeguato da un punto di vista militare. La scelta della guerra aerea peggiorò oggettivamente la situazione dei civili sul terreno. Quindi la scelta della NATO di bombardare fu una scelta sbagliata, criminosa per molti, ma anche sbagliata proprio dal punto di vista militare, perché aumentò di fatto la crudeltà del conflitto e aumentò le vittime civili. Quindi però non dobbiamo dimenticare appunto il contesto generale di dove partì, quali erano le mire di Milosevic. Quindi questa, diciamo, è un po' la prima parte, l'infarinatura iniziale. Quindi vi sto dicendo che del ruolo importante del Kosovo per quanto riguarda la storia dei Balcani. Quindi nelle prossime puntate andremo avanti con questa analisi, perché essendo l'anno di ricorrenza del nostro coinvolgimento all'interno di queste guerre, è giusto fare un'analisi e guardare appunto dove stanno anche certi tipi di colpe, ma in generale ricordarci di una guerra molto vicina che però pochi ricordano veramente, perché non è stata, non hanno bombardato le nostre città, abbiamo noi bombardato altre città, però soglie del 2000, e quindi è un'analisi da fare assolutamente. Andremo avanti, ci sono diversi reportage, ce n'è stato anche uno proprio del Manifesto. Però leggevo anche in un altro articolo del dell'Internazionale, invece lo critica molto. È stato uno speciale del 22 marzo che si intitola Il cielo sopra Belgrado. Quindi sarà interessante leggere entrambi i reportage e vedere un po' che analisi ne fanno. Detto ciò, andiamo un pezzaccio e poi andiamo invece col pezzo dei Balcani, che è un po' la chiusura del nostro urlo dei Balcani. Quindi che cos'è Non ho mandato? Direi avevo pensato senza dubbio, visto che parliamo del nostro coinvolgimento nei bombardamenti nei nostri vicini, direi quale canzone più appropriata se non Quali alibi. Tipo un esercito nemico in uno stato sovrano, tipo un'aperta violazione degli accordi che abbiamo. Io te lo dico e tu mi dici di parlare piano. Mi era sembrato di notare un fatto poco chiaro, come una specie di governo ma di terza mano, con un programma mai provato che però seguiamo. E neanche posso non votare perché non votiamo. Zitto zitto fa finta di niente, e tanto il mondo gira ancora come sempre. Finché c'è vita, beh, c'è la corrente. Meno problemi avrà chi meno si sente, che per esempio ha conosciuto questo parlamentare. No, dice a me che me ne frega, finché è legale passare ad una nuova appartenenza e restare senza neanche andare, che c'ho l'influenza e mi sale. Su quali ali di calibri la validità, quali ali di colibri, libri nell'area, e quali macabri crimini, tragici o comici, mi dici che c'è chi ti recriminerà. Per quali metodi meriti la tua indennità, quali lavi e crediti credi di avere qua, per quali taciti traffici illeciti eviti di dire che c'è chi ti recriminerà. Abbassa la cresta e smetti di chiedere, la busta l'hai vista, non farmi ricredere. Poi pacco e tabacco, ma soprattutto venere, vedrai che conviene che smetti di chiedere. Non basta una busta per farmi recedere, l'ho vista ma adesso ne resterà cenere. Ma intanto che aspetti che arrivi l'accelere, c'è giusto lo spazio per potermi rispondere. Su quali ali di calibri la validità, quali ali di colibri, libri nell'aria, di quali macabri crimini, tragici o comici, mi dici che c'è chi dire criminerà. Zitto, zitto. tanto fa finta di niente, che tanto il mondo gira ancora come sempre, finché c'è vita, beh, c'è la corrente, meno problemi avrà chi meno si sente. Se la vicina Cina ci nasconde cose, cose è meglio dire, dire state statici, chi ci dovevi abituare prima, chi ci dovevi abituare molto prima. Se caleranno i droni come calabroni, come dei ladroni, come delle magiche calando doni giungono alla meta, allora quella sarà l'ultima cometa. Su quali ali di calibri la validità, quali ali di colibri vibri nell'aria, di quali macabri crimini tragici o comici, mi dici che c'è chi dire criminerà, quali metodi meriti la tua indennità, quali la Ebbene, eccoci qua. Problemi tecnici. Qua non arriva niente, nessun suono. Ottimamente. Allora, continuiamo a provare. E qua non arriva niente. Allora, io in realtà volevo raccontarvi, parlarvi di un musicista romeno. E qui però non va assolutamente. Non va. Allora cercheremo di risolvere in qualche altro modo, qui non va. Allora, comunque, per non rovinare lo show, volevo parlarvi appunto di Romania. Chiaramente ho preso un autore della Romania, che è Mircea Florian. Nasce a Santumare nel 1949, inizia l'attività di cantante folk negli anni 70, appassionandosi anche al folklore locale e alla musica psichedelica. Suona in gruppi diversi prima di darsi all'elettronica, alla New Wave negli anni 80. L'immagine di Bob Dylan viene sostituita da quella di John Cage e Stockhausen. Nello stesso periodo si occupa di installazioni sonore e nel 1999 espone alla Biennale di Venezia. Ora, qui non va niente, continuiamo a provare, però ha proprio smesso di funzionare. Oh, eccoci qua. Bella roba. Perfetto. Quindi calma e sangue freddo. Quindi l'autore di oggi dai Balcani è Mircea Florian. Appunto è un musicista molto interessante, devo dire, perché mi ricorda Adrian De, ve lo devo dire, mi ricorda Adrian De a tratti, cioè mi ricorda proprio De André nelle sonorità, nelle musicalità, soprattutto nella sua parte folk, folkloristica. E quindi ho scelto un pezzo per voi, un po' lunghetto, sono 5 minuti di pezzo, però devo dire è veramente valido, ma è valido tutto l'album, tutte le sue, insomma la maggior parte delle sue produzioni. Il pezzo che ho scelto è Pasarile din Palma. E questo è Mircea Florian. Quindi ascoltate, sentite un po'. E se poi volete dirmi qualcosa, mi raccomando, tutte le volte potete scrivermi a postawob@chiocciolensiberio.net oppure sulla pagina Facebook, ce l'ho sempre qui avanti, Radio Wombat. E potete comunicare con me, dirmi un po' cosa ne pensate in generale, se avete anche qualche suggerimento da darmi su questioni da affrontare riguardano i Balcani. Anzi, non vedo l'ora, perché insomma non è sempre facile trovare notizie, a volte ci si rimbalza appunto Romania Serbia. Quindi se volete dire qualcosa, dire la vostra, io sono in ascolto, e quindi vi mando l'ultimo pezzo prima di salutarvi definitivamente. Pasarile din Palma, Mircea Florian. Chist è brava, eh? È brava. Mircea Florian. No, questo era un pezzo stranissimo. E mi ha veramente colpito. Ma tutto l'album mi ha colpito. Veramente. Ho detto, ma vediamo, cerchiamo qualcuno oggi di nuovo. Che tra l'altro è esatto nel libro, no? Che vi ho detto, dai Balcani. Guida alla musica dei Balcani e del Caucaso, di Zaudoia. È proprio sopra ai Duci in D'Agostea. Che abbiamo finalmente mandato la volta scorsa. Pezzo incredibile. Bene, ma questo era veramente un pezzo incredibile. Quello era un po' Maranza incredibile. Questo è veramente incredibile, secondo me. E niente, dai, ci risentiamo fra due giovedì. Spero di continuare. Sicuramente affronteremo le elezioni ucraine. Conteneremo queste pillole dalla guerra, dalle guerre balcaniche di Jugoslavia, di fine, in particolar modo della bombardamenti della NATO in cui noi siamo coinvolti, avvenuti il 24 marzo del 1999. Quindi continueremo ad analizzare quel periodo storico piano piano, pillola per pillola, magari anche con qualche ospite, sarebbe male. E niente, e poi con tutto il resto, con la musica, con le storie divertenti e non, eccetera. Quindi continuiamo con i nostri urli dai Balcani. Ci sentiamo settimana prossima. Grazie a tutti, il buon Tuco vi saluta e vi ringrazia. Buona serata a tutti e soprattutto Yuri! E poi la sera? Ma cosa ascolti? Radio Wombat!